Sole, te la gioia accusa e Antonia con te qui si dicea che voi foste ferito e via tu pure Carlo la Svezia che ha mal partito ma dunque quel tel Kreuz che apposto disattato era voi

questo cielo che feci in tal giorno già s'accinge il mio sposo col figlio al ritorno testimon d'un'adultera fiamma e i vedrà in cospetto del padre tremar mia viltà e gonfiarsi il mio petto dei vani sospiri e tra lacrime e rise il mio ciglio languir. Credi tu che curante di tese alla fama di svelargli non osi l'orrendo mio trama che mentire ei mi lasci al parente ed al re